Il monaco abbassò la testa e si appoggiò al tronco di un enorme tasso, assorto in un profondo dolore. Stenio si sedette a terra sul bordo del burrone. Era appoggiato a una roccia. Dopodiché, tra lui e il lago non c'era altro che il ripido pendio di una pianura di sabbia bianca, dove le nuvole, passando sopra la luna, disegnavano le loro grandi ombre in movimento. «Oh, lo sapevo!» gridò Stenio con una voce forte e profonda che si spinse nelle profondità del lago. Lo sapevo, mio Dio!» E si alzò in piedi, come se stesse per correre. Magnus rabbrividì e si affrettò a trattenerlo. Stenio si era seduto di nuovo e il sacerdote, temendo di risvegliare in lui il terribile pensiero del suicidio, non osò chiedergli di lasciare il posto. «Sapevo bene!» disse Stenio con lo stesso tono di voce timoroso e cupo, che non c'era nulla di vero nei sogni dell'uomo e che una volta rivelata la verità non c'era altro per lui che la pazienza della noia o la risoluzione della disperazione. E quando ho detto che l'uomo può trarre piacere dalla sua forza individuale, ho mentito agli altri e a me stesso, perché chi è arrivato al possesso di una forza inutile, all'esercizio di un potere senza valore e senza scopo, non è che uno sciocco lussurioso di cui diffidare. Nei sogni della mia giovinezza, nelle estasi della mia poesia più fresca, un fantasma d'amore aleggiava incessantemente e puntava al cielo. Lelia, Lelia, la mia illusione, la mia poesia, il mio Eliseo, il mio ideale, che ne è di te? Dov'è fuggito il tuo spettro luminoso? In quale etere sfuggente è svanita la vostra sostanza immateriale? È che i miei occhi si sono aperti, è che apprendendo che tu eri l'impossibile, la vita mi è apparsa tutta nuda, tutta cinica, bella a volte, orrenda spesso, ma sempre simile a se stessa, nelle sue bellezze o nei suoi orrori, sempre limitata, sempre soggetta a leggi imprescrittibili che non spetta alla fantasia dell'uomo sollevare. E man mano che questa fantasia si consumava e si spegneva, questa fantasia dell'irraggiungibile che sola poetizza i giorni dell'uomo e lo lega per qualche anno ai suoi frivoli piaceri, man mano che la mia anima si stancava di cercare tra le braccia di uno stuolo di donne il bacio estatico che solo Lelia poteva dare nel vino, nella poesia e nella lode, l'ebbrezza che una parola d'amore di Lelia doveva riassumere, mi illuminavo al punto di sapere: ascolta, Magnus, e che le mie parole ti siano utili. Mi illuminavo al punto di sapere che anche Lelia è una donna come le altre, che le sue labbra non hanno un bacio più dolce, che la sua parola non ha una virtù più potente del bacio e della parola di altre labbra. Oggi so tutto di Lelia, come se l'avessi posseduta. So cosa la rendeva così bella, così pura, così divina. Ero io, era la mia giovinezza. Ma come la mia anima è appassita, così l'immagine di Lelia. Oggi la vedo così com'è, pallida, con il labbro spento, i capelli cosparsi di quei primi fili d'argento che invadono il nostro cranio come l'erba invade la tomba, la fronte attraversata da quella piega ineffabile che la vecchiaia fa in noi, prima che una mano leggera e indulgente, poi con un'unghia profonda e crudele. Povera Lelia, sei proprio cambiata. Quando passi nei miei sogni, con i tuoi diamanti e i tuoi abiti all'antica, non posso fare a meno di ridere amaramente, di dirti, ebbene, che tu sia una regina, Lelia, e che tu abbia molto spirito, perché sul mio onore non sei più bella. E se oggi mi invitassi al banchetto celeste del tuo amore, ti preferirei alla giovane ballerina Torquata o alla gioiosa cortigiana Elvira? E dopo tutto, Torquata, Elvira, Pulcherì, Lelia, cosa siete voi per intossicarmi, per legarmi a questo giogo di ferro che mi insanguina la fronte, per impiccarmi a questa forca dove le mie membra si sono spezzate, nugolo di donne dai capelli biondi, dalle trecce d'ebano, dai piedi d'avorio, dalle spalle brune di ragazze modeste, di debosciate ridenti, di vergini dai timidi sospiri, di messaline dalla fronte sfacciata, tutte voi, tutte. Voi che ho posseduto o sognato, cosa verreste a fare nella mia vita presente? Quale segreto mi dovreste rivelare? Mi dareste le ali della notte per andare in giro per l'universo? Mi raccontereste i segreti dell'eternità? Fareste scendere le stelle per farmi da corona? Vorreste far sbocciare per me un fiore più bello e dolce di quelli che disseminano la terra dell'uomo? Bugiarde e impudenti che non siete altro. Cosa c'è nelle tue carezze che ti fa pagare un prezzo così alto? Quali gioie divine hai che i nostri desideri ti abbelliscono così? Illusione e fantasticheria. Siete voi le vere regine del mondo. Quando la vostra torcia si spegne, il mondo è inabitabile. Povero Magnus. E smettila di divorare le tue viscere, smettila di batterti il petto per farvi entrare l'impulso indiscreto dei tuoi desideri, smetti di soffocare le tue grida e di mordere le lenzuola del tuo letto quando lei li appare nei tuoi sogni. Vai, sei tu, pover'uomo, che la rendi così bella e così desiderabile. Indegno altare di una fiamma così santa, lei ride di se stessa e del tuo tormento perché sa bene, la donna, che non ha nulla da darti in cambio di tanto amore. Più abile degli altri, non si arrende, si gasa, si rifiuta, si divinizza, ma si velerebbe così se il suo corpo fosse più bello di quello delle donne che compriamo. La sua anima si sottrarrebbe agli slanci d'affetto se fosse più grande e più capiente della nostra. Donna, sei una menzogna, amico, non sei altro che vanità. A tali insolente pretese Dio doveva la punizione di questi miserabili inganni. Lelia è il tuo sorriso che mi ha portato fuori strada, Don Giovanni è il tuo esempio che mi ha perso. Stenio si sedette sognante e subito si alzò. Sì, sei tu, Don Giovanni, che mi hai perso senza ritorno, gridò con veemenza. È la mia fervente adorazione per te che mi ha gettato in un pozzo senza fondo. Seguendo le tue orme speravo di elevarmi al di sopra degli altri uomini. Il giorno in cui ti dissi, sì, la mia stella è il mio Dio. Il giorno in cui bestemmiai il padrone del mondo per portare le mie preghiere e il mio incenso sull'altare del tuo genio, pensai che sarei cresciuto e avrei preso coraggio, pensai che il disprezzo delle leggi volgari avrebbe portato ai miei piedi le ambizioni comuni e mi ritrovai più in basso di loro. Che tu sia maledetto, maledetto Don Giovanni, ti avevo preso per grande e sei solo follia. La polvere dei tuoi passi non vale più della cenere spazzata dal vento. La strada che hai seguito porta solo alla disperazione, alla vertigine. Ora che il mio sangue sta rallentando, le mie arterie rallentano e si calmano, posso tornare in me stesso. Sorrisi invitanti e parole dolci non disturbano più le mie fantasticherie. Non credo più, come un tempo, che i sospiri voluttuosi e i baci ardenti siano l'unica felicità e saggezza. In quest'ora solenne in cui il mondo svanisce e si dissolve, in cui i miei occhi possono solo intravedere, attraverso una nuvola di delizie bugiarde in cui avevo confidato la tua ombra, Don Giovanni, non ha più il potere di portarmi fuori strada. Posso guardarti in faccia senza arrossire o tremare. Non sei più il mio padrone, il mio idolo. Non vedo più nei tuoi occhi ardenti il raggio divino della speranza e della forza. L'alone luminoso che brillava sopra la tua testa è scomparso per non tornare mai più. Ora sei solo uno spettacolo di stupore e pietà per me, ma non offrirò più le preghiere delle mie labbra ai tuoi spiriti maledetti. Non porterò più alla tua vanità la fiducia celeste della mia giovinezza come olocausto. Non brucerò più ai piedi della statua i fiori profumati che sono sbocciati nella mia anima e che il tuo respiro ha fatto appassire. Ciccione insolente, dove hai ottenuto i diritti insensati a cui hai dedicato la tua vita? In quale momento e luogo Dio ti ha detto: questa è la terra, è tua? Sarai il signore e il re di tutte le famiglie, tutte le donne che preferisci sono destinate al tuo letto. Tutti gli occhi a cui ti degni di sorridere scoppieranno in lacrime per implorare la tua misericordia. I nodi più sacri saranno sciolti non appena dirai lo voglio. Se un padre reclama la figlia da te, tu affonderai la tua spada nel suo cuore desolato e macchierai i suoi capelli bianchi di sangue e fango. Se un amante furioso viene da te, ferro da stiro alla mano, per contestare la bellezza della sua amante, tu ti farai beffe della sua rabbia e confiderai nella tua missione irrevocabile. Lo aspetterai con fermezza, senza affrettare il colpo che dovrà colpirlo. Un angelo che manderò gli oscurerà gli occhi e lo condurrà alla ferita. Cioè, Dio non ha forse governato il mondo per i tuoi piaceri? Ha ordinato al sole di sorgere per illuminare i borghi e le taverne, i conventi e i palazzi, dove la tua verve libertina improvvisava le sue avventure? E quando la notte era arrivata, quando il tuo labbro insaziabile si era ubriacato di sospiri e carezze, ha acceso le stelle silenziose nel cielo per proteggere il tuo ritiro e guidare i tuoi nuovi viaggi. L'infamia inflitta da te è stato un onore degno di invidia. Hai svolto il ruolo per cui sei nato, il flagello della tua perfidia è stato un sigillo glorioso, splendido, ineffabile, che ha segnato il tuo passaggio, come le querce fulminate e il corso delle nubi ardenti. Non hai riconosciuto a nessuno il diritto di dire Don Giovanni è un vigliacco perché abusa della debolezza, tradisce donne indifese. No, non ti sei tirato indietro di fronte al pericolo. E se un vendicatore si è armato per le vittime della tua dissolutezza, non hai trascurato un cadavere e non hai avuto paura di inciampare quando hai messo piede nelle sue membra intorpidite. Un giorno, senza una promessa e una bugia, una notte senza un adulterio e un duello, sarebbero stati una vergogna irreparabile per te. Camminavi a testa alta e i tuoi occhi cercavano audacemente la preda che dovevi divorare. Dalla timida vergine che tremava sotto i tuoi baci alla sfacciata cortigiana che sfidava il tuo coraggio e la tua fama, non hai voluto ignorare nessuna delle gioie dell'anima o dei sensi. Il marmo del tempio o lo sterco della stalla sono serviti da cuscino per il tuo sonno. Cosa volevi, Don Giovanni? Cosa volevi da queste donne in lutto? È stata la felicità che hai chiesto sulle loro braccia? Speravi di fare una sosta dopo questo faticoso pellegrinaggio? Pensavi che Dio ti avrebbe finalmente mandato una donna per sistemare i tuoi amori volubili, una donna superiore a tutte quelle che hai tradito? Ma perché le hai tradite? Quando le hai lasciate hai sentito dentro di te il dispetto e lo sconforto di un'illusione perduta. Le loro carezze ed estasi non hanno raggiunto l'apice delle tue ambiziose fantasticherie. Se tu avessi detto, nel tuo solitario e mostruoso orgoglio, mi devono una felicità infinita che non posso dare loro. I loro sospiri e i loro gemiti sono una dolce musica per il mio orecchio. Le torture e le angosce dei miei primi abbracci deliziano i miei occhi. Schiave, sottomesse e devote, mi piace vederle abbellite da una gioia bugiarda per non disturbare il mio piacere. Ma vieto loro di piantare la loro speranza sulla soglia del mio pensiero? Vieto loro di aspettarsi fedeltà in cambio di sacrificio? Ti sei sentito avvampare di rabbia ogni volta che hai intuito nel profondo della loro anima l'incostanza che le rendeva uguali a te e che forse ti avrebbe conquistato? Ti sei vergognato e umiliato quando i loro giuramenti ti hanno minacciato con un amore ostinato e implacabile che avrebbe incatenato il tuo egoismo e la tua gloria? Hai letto da qualche parte, nei consigli di Dio, che la donna è una cosa fatta per il piacere dell'uomo, incapace di resistere o di cambiare. Pensavi che questa perfezione ideale della rinuncia esistesse sulla terra e che dovesse garantire l'inesauribile rinnovamento delle tue gioie? Pensavi che un giorno il delirio avrebbe strappato alle labbra della tua vittima un'empia promessa e che lei avrebbe gridato «Ti amo perché soffro! Ti amo perché assapori un piacere indiviso! Ti amo perché sento dai tuoi baci lenti, dalle tue braccia che mi aprono e mi abbandonano, che presto ti stancherai di me e che mi dimenticherai!» Io mi dedico perché tu mi disprezzi. Io ricorderò perché tu mi cancellerai dalla tua memoria. Ti innalzerò un santuario inviolabile nel mio cuore perché tu iscriverai il mio nome nel tuo libro sdegnoso e insultante? Se hai nutrito questa assurda speranza per un solo momento, non sei stato altro che uno sciocco, Don Giovanni. Se per un attimo hai creduto che una donna potesse dare all'uomo che ama qualcosa di diverso dalla sua bellezza, dal suo amore e dalla sua sicurezza, sei stato uno sciocco. Se credevi che le sue carezze avrebbero spento impunemente l'ardore dei tuoi sensi, che la sua impazienza non si sarebbe mai assopita e avrebbe aspettato senza stancarsi il risveglio dei tuoi grossolani desideri, che ti avrebbe prestato la sua spalla per cullarti nel sonno, il suo cuore per riposare la tua testa, e che non si sarebbe indignata quando la tua mano l'avesse allontanata come un indumento inutile. Eri solo uno spirito cieco e ignorante. Oh, come ti hanno frainteso coloro che come me hanno visto nel tuo destino l'emblema di una lotta gloriosa e perseverante contro la realtà. Se avessero ripetuto a loro spese la prova che hai tentato tu, non ti avrebbero dato tanto credito, confesserebbero ad alta voce la miseria delle tue ambizioni, la meschinità delle tue speranze. Se avessero come te combattuto corpo a corpo con l'orgia e la dissolutezza, come saprebbero cosa ti è mancato? Vai, eri solo un libertino senza cuore, un'anima di cortigiano spudorato nel corpo di un aratore. Al di là del piacere che si esaurisce, non hai visto la misteriosa simpatia che rimane dopo l'intossicazione dei sensi, l'affetto pacifico e sereno che sopravvive alle estasi di un letto imbalsamato e che raddoppia con il ricordo la voluttà svanita. Ecco perché, Don Giovanni, la tua morte li spaventa e li sgomenta, e perché ti adorano in ginocchio, i loro occhi non attraversano l'orizzonte che tu avevi abbracciato. Sono felici come te, solo con lo stridore dei denti. La stanchezza e il dolore dei tuoi ultimi giorni, l'implacabile duello del tuo cervello randagio contro il tuo sangue intorpidito, l'agonia e il rantolo delle tue notti insonni, li colpiscono con terrore, come una minaccia profetica. Non sanno gli stolti che le tue lamentele erano bestemmie e che la tua morte non è che una giusta punizione. Non sanno che Dio sta punendo l'egoismo e la vanità in te, che ti ha mandato alla disperazione per vendicare le vittime la cui voce si è levata contro di te. Ma non hai il diritto di lamentarti. La punizione che ti è stata inflitta è solo una rappresaglia. Non eri saggio, Don Giovanni, se non eri consapevole dell'esito fatale di tutte le tragedie che avevi interpretato. Non hai studiato bene i modelli che ti hanno preceduto nella carriera e che volevi ringiovanire. Non sapevi che il crimine, per avere una qualche grandezza, per rivendicare l'impero del mondo, deve vivere nella presenza assidua, nella consapevolezza anticipata della punizione che merita ogni giorno. Allora forse potrà vantarsi del suo coraggio perché non ignora la fine che lo attende. Ma se pensavi di sfuggire alla vendetta del cielo, Don Giovanni, eri solo un codardo. Inoltre, anche se a quest'ora la mia rabbia ti calunniasse, se tu fossi quella grande idea personificata che un tempo credevo di vedere in te, avrei comunque il diritto di maledirti e odiarti perché sei tu che mi hai perso. Ho aspirato troppo in alto. Ti ho rivestito di una gloria che probabilmente non è mai stata tua e che ho voluto eguagliare. Mi sono scoperto debole, gracile nella mente e nel corpo. Ho scambiato l'immaginazione per intelligenza, il desiderio per necessità, la volontà per forza. Ho confuso tutto. E mi sono spezzato cercando di combattere contro i lati deboli del mio organismo. Tre mor mi hai condannato quando hai detto che le disgrazie purificano solo le grandi anime. Lelia mi ha condannato quando una volta ha scritto che l'uomo caduto deve morire. Cosa c'entra la tua tiepida e banale amicizia con questo? Sei così ingenuo nella tua carità che la vita di un uomo come me ti sembra preziosa come quella di un cavallo, di un bue o di un servo utile? Vai a occuparti dei tuoi stallieri e dei tuoi cani. Ti saranno utili. Sarei solo di intralcio. La pietà è un sentimento vicino al disprezzo e la mano che sostiene un amico che vacilla diventa presto insensibile. E poi non credi nell'amicizia. Mi hai offerto invano il tuo sostenermi e guidarmi nelle vie del futuro. Puoi vedere che mentivi a te stesso e che mi hai abbandonato. Dov'eri quando mi sono perso? Nella calma del tuo sublime riposo, della tua immutabile rinuncia, Tremor, sapevi che Stenio stava lottando contro l'agonia di tutte le sue facoltà? Ma lei ha detto: peccato per Stenio. Seduti al riparo della tempesta, sapevate che laggiù uno skiff si stava infrangendo sugli scogli, ma dicevate: Dio lo ama, Dio lo salverà. La provvidenza veglia su di lui. La prova sarà buona e salutare per lui. Tornerà. Lasciatelo lottare un po'. E nel frattempo io stavo morendo. Non vi siete detti che l'amicizia è l'unica provvidenza che gli uomini dovrebbero invocare e che se ci fossero degli amici svolgerebbero il ruolo di Dio gli uni verso gli altri, ma no! È come per le altre cose. La nostra anima ha il sentimento, ma non il potere. Concepisce gli affetti e le virtù, come sogna le scale che salgono dalla terra alle stelle. L'immaginazione scala costantemente il cielo. L'uomo rimane insensibile nel suo limo, il cervello partorisce le azioni e le azioni abortiscono il cuore, e il cuore promette e la mano rifiuta. Oh disprezzo e pietà per tutti questi paralitici che pensano di sostenersi e aiutarsi a vicenda e che se ne vanno inciampando e cadendo sulle loro ginocchia storpie, incapaci di sollevare una canna per aiutarsi. Poveri monchi che parlano della forza delle loro braccia, poveri zoppi che pensano di essere sempre pronti a correre, poveri bugiardi che ripetono senza vergogna o paura gli stessi giuramenti che vengono sempre traditi, le stesse offerte che sono sempre impotenti. Ma cos'è questo misterioso, incomprensibile, forse sublime impulso di in queste anime fangose? Che cos'è questo bisogno di effusione, di affetto che ci divora? Verso quale ombra di tenerezza e di bontà queste aspirazioni del cuore sofferente, queste grida di debolezza chiedono aiuto? Invano le disastrose lezioni dell'esperienza ci hanno insegnato che questa sabbia mutevole deve cedere sotto i nostri piedi. Ma i nostri piedi, imprudenti, si avventurano ancora su di essa. Qual è questa forza, o meglio questa febbre ostinata che ci spinge verso la delusione e il dolore? Perché questa sete d'amore non si placa? Perché questo sogno di fiducia e devozione non svanisce mai del tutto? Perché a una parola amichevole, a uno sguardo comprensivo, la nostra credulità casca sempre? Perché le lacrime sono simpatiche? Perché sentiamo il bisogno di aiutare chi sta perendo e di ringraziare chi ci salva? Perché ci sentiamo l'amico involontario e necessario dell'uomo che vediamo soffrire? Perché ci lasciamo cadere sulla spalla di colui che ci invita e ci chiama? Perché questa parola, io ti consolerò, che venga dalla bocca di una donna o dall'occhio di un cane, dalla lettera di un amico o dal pulpito di un sacerdote? Perché questa parola prostituita, sporcata in tutto, flussi ancora un potere irresistibile, io ti consolerò. Perché questo lampo di fiducia e di gioia che scaturisce dalla nostra anima esausta, l'ultima convulsione di un moribondo che vuole riconquistare la vita, l'ultimo sforzo di un naufrago che, credendosi aggrappato a una tavola di salvezza, abbraccia il cadavere di uno dei suoi compagni e affonda con lui. Debolezza e miseria dell'uomo, invano egli ha voluto erigervi in grandezza, invano ha fatto delle vostre suggestioni e delle vostre paure, degli alti sentimenti, delle preziose virtù. Bugie e vanità, si accorge solo di voi due. Lelia, Trenmore, o miei amici, siate maledetti per il bene che non mi avete fatto. Perché mi avete attirato con una speranza stolta, mi avete disgustato con la vita reale, mi avete abituato a contare su gioie che non mi avete dato. Avete aperto le porte della felicità e le avete chiuse davanti a me. Senza di voi avrei accettato la vita povera e i piaceri sobri della realtà, avrei vissuto da solo, senza noia, senza preoccupazioni. Mi avete detto che nello scambio e nell'associazione delle anime c'erano gioie sublimi. Ci ho creduto ed eccomi qui, solo e desolato, illuminato senza ritorno sul nulla delle vostre promesse. Perché avete permesso che il male si compisse e la mia rovina si consumasse? Oggi arrivereste troppo tardi. E tu, potenza sconosciuta che un tempo adoravo ingenuamente, misterioso padrone dei nostri miseri destini, che ancora riconosco, ma davanti al quale non mi inchino più, se il mio dovere è quello di piegare il ginocchio e benedirti con questa vita amara, manifesta la tua presenza e fammi sperare almeno di essere ascoltato da te. Ma cosa devo sperare o temere? Cosa sono io per suscitare la tua rabbia o per meritare il tuo amore? Che cosa ho fatto qui sotto, di buono o di cattivo? Ho obbedito all'organismo che mi è stato dato? ho esaurito le cose reali, ho aspirato alle cose impossibili, ho portato a termine il mio compito umano. Se ho anticipato la fine di qualche giorno, che importanza ha per te? Se ho spento la fiaccola della mia intelligenza con l'abuso dei piaceri, cosa importa all'universo che Stenio lasci nella memoria degli uomini qualche centinaio di versi in più o in meno? Se sei un padrone vendicativo e collerico, la vita non sarà un rifugio per me e non sfuggirò, non sfuggirò, qualunque cosa faccia, alle espiazioni dell'altra vita. Se sei giusto e buono, mi accoglierai nel tuo seno e mi guarirai dai mali che ho sofferto. E se non lo sei, allora io stesso sono il mio Dio e il mio padrone, e posso abbattere il tempio e l'idolo.